13. Una colonia di quaccheri. Una scena di pace si offre ora ai nostri sguardi. Eccoci in un'ampia e bella cucina su cui il pavimento giallognolo, nitido e luccicante, non troveresti un granello di polvere. Ecco una fila di fornelletti anneriti, un'altra fila di cazzaruole, tutte lustre che fanno pensare involontariamente a ghiotti bocconi. Qua e là, alcuni solidi seggioloni tinti di verde. Una piccola scranna a dondolo attentamente lavorata e ricca di vaghe intarsiature. Lì vicino una poltrona, le cui larghe braccia invitano al riposo. Una poltrona di antica forma, degnissima d'essere anteposta a una dozzina di eleganti sofà moderni. E seduta su quella, con gli occhi chini sul lavoro, sta la nostra buona Elisa. Sì, eccola, quantunque più pallida e più magra che non fosse in casa dei Shelby. Un dolore latente aveva visibilmente alterato le sue sembianze, ma se il suo cuore era invecchiato, si era altresì rinvigorito sotto il flagello delle afflizioni, e quand'ella sollevava gli occhi verso il suo Enrichetto, che simile a un farfallino dei tropici le andava svolazzando intorno, si scorgeva nei suoi sguardi una profondità di fermezza e di risoluto coraggio che non si sarebbe vista in lei nel suo trascorso tempo felice. Seduta a fianco di Elisa, una donna che teneva sopra le sue ginocchia un recipiente di stagno, era tutta intesa a scegliere e disporre simmetricamente pesche disseccate. Aveva dai 55 ai 60 anni, ma il suo viso era di quelli che il tempo sembra non aver tocchi se non per renderli più belli. Una cuffia di tulle increspato, bianca come neve, un semplice fazzoletto di mussolina incrociato sul petto. Una veste e uno scialle grigio facevano ben conoscere a qual religiosa comunanza ella appartenesse. Il rotondetto e roseo volto di lei spirava la placidezza di un seno maturo, i suoi capelli inargentati in parte dagli anni si dividevano semplicemente sopra un'alta e beata fronte, su cui il tempo non aveva lasciato altra iscrizione se non questa: pace sulla terra agli uomini di buona volontà. E sotto cui scintillavano due grandi occhi neri, ingenui e affettuosi. Al solo guardare in quegli occhi si sentiva che erano l'espressione del più puro e schietto cuore che mai battesse nel seno di una donna. Discorsi e canti innumerevoli hanno celebrato le donne belle e giovani, perché nessuno ancora cantò la bellezza delle donne mature. Se c'è qualcuno che cerchi di ispirarsi su tale argomento, lo esortiamo a venire a contemplare la nostra buona Rachele Halliday, che se ne sta ora qui seduta sopra una poltrona. Fosse la conseguenza d'un reuma preso in gioventù, o affezione asmatica o contrazione di nervi, la detta poltrona aveva una gran facilità di cigolare e stridere, e quando Rachele vi si dondolava, quella poltrona metteva certe note acute che sarebbero state intollerabili in ogni altra poltrona. Ma il vecchio Simeone Halliday diceva che quel cigolio era per lui una musica, e i ragazzi andavano ripetendo che non avrebbero voluto per nulla al mondo rimaner privi del diletto di sentire lo scricchiolare della poltrona della mamma. Perché? Perché erano più di 20 anni che partivano da quella poltrona veneranda, come da un pergamo, le parole d'amore, i dolci ammonimenti. Molte, molte pene dell'anima e del corpo erano state guarite. Molte difficoltà spirituali e temporali erano state risolte da colei che la occupava, da quella amorevole donna soltanto. Che la divina provvidenza la benedica. Pensi dunque sempre, Lisa, ad andartene fino al Canada? Disse ella guardando le pesche. Sì, signora, rispose quella con fermezza. Bisogna che io parta, non ardisco di rimanere. E che farai quando vi sarai giunta? Ci hai pensato, figliuola mia? Questo detto, figliuola mia, veniva naturalmente alle labbra di Rachele Halliday, poiché tutte le sue sembianze rendevano il nome di madre la parola più naturale che le si potesse dare. Le mani di Elisa tremarono e una lacrima le cadde sopra il lavoro. Io mi porrò a lavorare, rispose lei, e spero che qualche cosa troverò da fare. Sai bene che puoi rimanere qui finché ti piace. Oh, vi ringrazio, disse Elisa. Ma io non posso trovar pace, non posso dormire la notte. E accennava al suo Enrichetto. La notte scorsa ho sognato che quell'uomo era nel cortile. E la scosse un brivido affannoso. Povera figliuola, disse Rachele asciugandosi gli occhi. Non bisogna tanto spaventarsi. Il Signore ordinò le cose in modo che mai fuggitivo alcuno fu preso nel nostro villaggio e spero bene che tu non sarai la prima. L'uscio in quell'istante si aprì e una donnetta tonda come un pomo dal viso gaio e fresco vi si affacciò. Portava una veste grigia al pari di Rachele e aveva anch'ella sul seno piuttosto ricolmo un fazzoletto di mussolina. Ruth Stedman, disse Rachele avanzandosi con aria giuliva e prendendole cordialmente le mani. Come stai? Benissimo, rispose lei. E togliendosi il cappello grigio, lasciò vedere una testolina rotonda coperta del cuffiotto di rigore che non escludeva la leggiadria. Alcune ciocche di capelli ricciuti, sfuggendo qua e là, non sembravano disposte a voler tornare nella loro prigione. Racconciatasi un po' davanti allo specchio, la sopraggiunta, che aveva forse 25 anni, mostrò di essere contenta di sé come ogni altro sarebbe stato nel guardarla, poiché ella era una donnetta avvenente, con la sincerità dipinta sul volto, di aspetto gioviale e nata per rendere veramente beato un cuor suo e un cuor d'uomo. Ruth, questa amica è l'Elisa Harris ed ecco il fanciulletto di cui ti ho spesso parlato. Oh, sono ben lieta di vederti, disse Ruth, stringendo la mano ad Elisa come se fosse una vecchia amica lungamente aspettata. E questo è il tuo piccino? Io gli ho portato una chicca. Così dicendo, porse a Enrichetto una pasta dolce in forma di cuore che egli accettò timidamente, contemplando la donatrice attraverso le ciocche dei suoi capelli. E il tuo bimbo, Ruth, dov'è? Disse Rachele. È qui che viene. La tua Maria lo ha fermato mentre entrava e lo ha condotto verso il granaio per mostrarlo ai fratellini. L'uscio si aperse e Maria, fresca giovinetta di amabile viso, con occhi bruni come quelli di sua madre, entrò col fanciullo. Ah, esclamò Rachele prendendosi in braccio il bimbo grassotto, ben complesso e bianco. Vedi com'è prosperoso e come si fa grandino. Non è vero? Fece la piccola e vivace Ruth, ripigliando il fanciulletto e sbarazzandolo d'un cappuccio di seta azzurrina e di vari altri oggetti superflui. E quando l'ebbe aggiustato a modo suo, intramezzando quelle materne cure di parecchi sonori baci, lo pose a terra con l'intenzione evidente di lasciarlo libero alle sue riflessioni. Il bimbo pareva avvezzo a quei modi, perché si mise subito un dito in bocca e parve che si abbandonasse a una meditazione profonda, mentre sua madre si sedeva e, presa in mano una lunga calza di lana bianca e turchina, cominciò prestamente a fare la maglia. Non faresti meglio, Maria, a porre la cazzaruola al fuoco? Disse Rachele soavemente. E la cazzaruola, riempita d'acqua, posta subito sul fornello, cominciò di lì a poco a levare il fumo, che pareva incenso ad onor dell'ospitalità e del viver giocondo. Poi la stessa mano, per obbedire alle indicazioni di Rachele, poneva le pesche nella cazzaruola, indi Rachele, strettasi ai fianchi un grembiule, prese una tavoletta bianchissima e si diede a impastarvi alcuni biscotti mentre diceva: Maria, non faresti bene ad avvertire John che ci prepari un po' di selvaggina? E Maria scompariva in conformità di quell'ordine. Come sta Abigail Peters? Disse Rachele senza smettere di manipolare la pasta. Oh, assai meglio, rispondeva Ruth. Sono andata stamattina a vederla, le ho rifatto il letto e ho rimesso in ordine ogni cosa. Leah Hills oggi è andata da lei nel pomeriggio e le ha fatto pani e schiacciate che bastano per parecchi giorni. Io le ho promesso di andare questa sera a sollevarla un poco. Io vi andrò domattina, disse Rachele, per pulire la casa e vedere se c'è qualche cosa da accomodare. Oh, farai benissimo, soggiunse Ruth. Ho sentito che anche Anna Stanwood è malata. John ha passato la notte ad assistere, io devo andarvi domani. John potrebbe venire a pranzo qui se tu hai bisogno di rimanere là tutto il giorno. Grazie, Rachele, grazie. Si vedrà domani. Oh, ma ecco Simeone. Simeone Halliday, di statura alta, dritto, vigoroso, indossava abito e calzoni grigi e portava un cappello a tese larghissime. Come stai, Ruth? Disse egli, stringendole con la sua larga mano le dita grassottelle. E come va la salute di John? Oh, John sta benissimo, come pure tutti di casa, disse Ruth giulivamente. Che notizie abbiamo, padre? Domandò Rachele, intenta a mettere nel forno i biscotti. Ah, Pietro Stebbins mi ha detto che verrebbe qua stasera con alcuni suoi amici, rispose Simeone in modo significativo da un gabinetto dove era entrato per lavarsi le mani. Davvero? Esclamò Rachele con aria pensosa, gettando uno sguardo sopra Elisa. Dicesti pure che il tuo cognome è Harris? Disse Simeone ad Elisa rientrando nella camera. Rachele fece un cenno con la coda dell'occhio al marito mentre con voce tremolante Elisa rispondeva di sì, poiché ella, nella sua inquietudine, temeva il caso possibile che si fossero pubblicati gli avvisi della sua fuga. Madre, disse Simeone uscendo dalla cucina e chiamando fuori Rachele, che c'è? Che vuoi, padre? Rispose lei, seguendolo. Il marito di quella figliuola, soggiunse Simeone, è nella colonia e sarà qui stasera. Davvero? Fece Rachele col viso raggiante di contentezza. Sì, Pietro andò ieri con la vettura fino all'altra stazione e trovò appunto colà una vecchia e due uomini, uno dei quali disse che si chiamava Giorgio Harris. Da quanto gli narrò delle sue avventure, io son certo dell'identità. È un intelligente e bel giovanotto. Ora dobbiamo avvisarla? Oh, bisogna dirlo a Ruth. Ehi Ruth, vieni, vieni un po' qua da me. Ruth posò la calza e uscì in un batter d'occhio. Senti Ruth, Simeone mi ha annunciato che il marito di Elisa è tra i fuggiaschi che noi aspettiamo stasera. La viva esultanza della donnina interruppe le sue parole e la fece un salto tale che due ciocche ricciutelle sfuggirono dalla sua cuffia, allungandosi sul bianco fazzoletto del collo. Piano, piano, cara mia, disse Rachele con tutta suavità. Credi tu che le si debba dire fin da questo momento? Ma sì, certo, senza perdere un minuto. Io mi metto nei suoi panni. Immagina un po' se fosse il mio John, come vorrei sapere ogni cosa presto. Oh, bisogna darle la notizia subito. Tutti i tuoi pensieri sono rivolti all'amor del prossimo, Ruth, disse Simeone guardandola affettuosamente. E che non siamo al mondo per questo? Se io non amassi John e il nostro bimbo non comprenderei i sentimenti di Elisa. Orsù, presto, fa che lo sappia dunque. E con un gesto persuasivo pose la mano sul braccio di Rachele. Va, soggiunse, falla entrare nella tua camera, io terrò le tue veci nel preparare la cena. Rachele tornò nella cucina dove Elisa stava cucendo e aperto l'uscio di una cameretta le disse: Entra qui con me, figliuola, ho da darti una notizia. Il pallido volto di Elisa diventò come di fuoco. Ella si alzò tremante, volgendo un ansioso sguardo sopra il suo Enrico. No, no, non aver paura, esclamò la piccola Ruth, correndo a lei e dandole una stretta di mano. Ci sono ottime notizie, entra, Elisa, entra. Ella spingeva dolcemente verso l'uscio, che subito richiuse. Indi si volse per prendere Enrichetto nelle braccia e lo coperse di baci. Vedrai fra pochi istanti qui il tuo babbo. Intendi, amorino mio, il babbo viene, disse ella mentre il bimbo la guardava con aria attonita. Un'altra scena succedeva nella camera attigua. Il Signore ha avuto compassione di te, figliuola mia, disse Rachele traendo Elisa al proprio seno. Tuo marito è riuscito a scampare dalla casa di schiavitù. Tutto il sangue di Elisa rifluì al cuore e la sedette pallida e quasi svenuta. Coraggio, figliuola, diceva Rachele ponendole la mano sul capo. Egli è con alcuni amici che lo condurranno da noi stasera. Stasera, esclamò Elisa, come se non intendesse il significato di questa parola. Ella credeva di sognare. Tutto nella sua mente era confusione e oscurità. Quando riprese i sensi, si trovò coricata sul letto, avvolta in una coperta, e vide accanto a sé la piccola Ruth che le faceva delle frizioni alle mani con spirito canforato. Aprì gli occhi in uno stato di sonnolento e dolce languore, come chi abbia portato per lungo tempo un gran peso e più non lo sente, goda di riposarsi. La tensione dei suoi nervi, che non era cessata un solo istante dopo la fuga, ora cedeva sotto il potere di un profondo sentimento di sicurezza. Dal suo letto, come se sognasse, ella seguiva i movimenti di coloro che l'attorniavano, vedeva per l'uscio aperto l'altra stanza e in essa preparar l'apparecchio della cena. Udiva il monotono gorgogliare del vaso del tè al fuoco, scorgeva Ruth andar lesta innanzi e indietro con piatti di focaccine dolci e di varie confetture, e di quando in quando fermarsi per porre un biscottino in mano a Enrichetto o per carezzargli la testina o per inanellargli con le bianche dita le lunghe ciocche dei capelli. Vedeva l'alta e materna figura di Rachele venire ogni tantino presso di lei e ravviare la coperta del letto, spianare qua e là le pieghe, come per esprimere la sua amorosa sollecitudine. E gli sguardi dei bruni suoi occhi discendevano sopra Elisa come un raggio di sole. Vedeva il marito di Ruth entrare e questa correre a lui. Sussurrargli alcune parole con gesti vivaci ed espressivi accennando col dito la camera da letto. E poi la vedeva col suo bimbo nelle braccia, seduta presso il brico del tè, e vedeva poi tutti a tavola e il caro Enrichetto in un'alta sedia sotto la fida vigilanza di Rachele. Udiva qua e là il sommesso mormorio dei discorsi, il lieve tinire dei cucchiaini da tè, il rumore gradito delle sottocoppe e delle tazze, e tutto ciò misto a una delizia di riposo e di sonno. Elisa finalmente si addormentò, cosa che non le era avvenuta dopo quella notte orribile in cui col fanciulletto in braccio era fuggita, rischiarata dalle stelle. Sognò un paese oltremodo bello e ridente, una terra piena di dolcezze, verdeggianti rive, amene campagne, acque limpide e fresche, e colà, in un'abitazione che amorevoli voci l'avvisavano esser sua, ella vedeva saltellare il suo fanciulletto libero e felice. Udì il rumore dei passi di suo marito, lo sentì avvicinarsi, le sue braccia la stringevano, le sue lacrime le cadevano sul viso ed ella si svegliò. Non era un sogno. Già da un pezzo il giorno se n'era andato, il suo bimbo le dormiva placidamente al fianco, dalla lampada veniva una luce incerta e suo marito appoggiava il capo singhiozzando al suo guanciale. La mattina dopo fu gran festa nell'abitazione dei quaccheri. La madre, alzatasi all'alba, era circondata dai suoi giovinetti e fanciulle che noi non avemmo il destro di presentare al nostro lettore e alla nostra lettrice, tutti affaccendati nell'aiutarla e obbedienti alle dolci esortazioni di Rachele che diceva loro: «Non sarebbe meglio che tu facessi a questo modo? Non dovresti far così?» Nelle fertilissime valli dello stato di Indiana una colazione è un affare complicato e richiede la cooperazione di molte. John corre ad attingere acqua alla fonte, Simeone il giovane passa allo staccio la farina per le frittelle, Maria attende a macinare il caffè e intanto Rachele dà uno sguardo sicuro ad ogni cosa, prepara i biscotti e diffonde l'armonia e l'unità fra i giovani ausiliari di cui tempera e dirige lo zelo con parole soavi, blande e opportune. Mentre tutti gli altri preparativi della colazione proseguivano, Simeone il vecchio, in maniche di camicia, dinanzi a un piccolo specchio, attendeva all'antipatriarcale operazione di radersi la barba. Tutto nella gran cucina procede quietamente e fraternamente. Ognuno pare felicissimo dell'occupazione che ha per le mani e vi si sente come un'atmosfera di mutua confidenza e di buon volere. Il suono dei coltelli e delle forchette che si pongono sulla mensa in bell'ordine sembra avere alcunché di grato e di amichevole, mentre il pollo e il prosciutto, che sono nella cazzaruola frammisti, levano un mormorio allegro, quasi godano di servire alla festa di quel giorno. Allorché Giorgio, Elisa ed Enrichetto uscirono dalla loro camera, ebbero sì amorevoli e festose accoglienze da tutta la famiglia che sembrò loro di sognare. Allora fu subito imbandita la colazione. La sola Maria era rimasta presso il focolare e continuava a cuocere le sue focaccine, che portava sulla mensa quando avevano preso quel colore bruno dorato che ne indica la perfezione. Rachele non era mai sembrata così contenta come ora in capo di tavola. Nel modo con cui faceva passare un piattello o una tazza era alcunché di sì materna e di sì cordiale bontà che pareva aggiungesse a quei cibi un nuovo e misterioso sapore. Era la prima volta in vita sua che Giorgio si trovava seduto da eguale alla mensa di un bianco. Egli provò da principio qualche peritanza, ma l'affezione che tutti gli dimostravano dissipò in breve quel suo impaccio, come i raggi di un bel mattino disperdono le nebbie fluttuanti per l'aere. Era questo veramente il focolare domestico, era la famiglia, parola di cui Giorgio non aveva finora ben conosciuto il significato. e la fede in Dio, la fiducia nella sua provvidenza cominciavano ad infiltrarglisi nel cuore e i tetri suoi dubbi di misantropo e di ateo si dileguavano dinanzi alla luce di quel Vangelo in azione, respirato dai volti di coloro che lo circondavano e predicato, diremo così, dai mille atti d'amore e di buona volontà che scorgeva in ciascuno. «Babbo», disse Simeone figlio, «che avverrebbe se tu fossi nuovamente sorpreso?» «Pagherei la multa», rispose Simeone tranquillamente. «E se ti mettessero in prigione?» «Forse che tu e tua madre non sareste buoni a governare la fattoria?» rispose il padre sorridendo. «La mamma può fare quasi tutto», disse il giovinetto, «ma non è una vergogna il fare di tali leggi?» «Non devi, Simeone, parlar male di chi sta al governo del paese», disse il padre con gravità. «Il Signore non concede a noi i beni della terra se non a fine che possiamo praticare la giustizia e la misericordia. Se per adempiere questi doveri il governo ci impone un tributo, noi paghiamolo. Ad ogni modo, io li detesto quei possessori di schiavi», riprese a dire il giovinetto. «Io mi meraviglio», disse Simeone. «Parmi che tu non abbia troppo profittato delle lezioni che t'ha date la mamma. Se Dio conducesse alla mia porta il possessore di schiavi nell'afflizione, io farei tanto per esso quanto per lo schiavo». Simeone, il giovane, diventò rosso come il fuoco. Sua madre si contentò di sorridere e disse: «Simeoncino è il mio buon figliolo. Aspettate un poco che si faccia grande, allora sarà simile a suo padre». «Non vorrei, mio buon signore», disse Giorgio con ansietà, «che aveste a correre alcun pericolo a cagione di noi». «Non temere, Giorgio, perché appunto a questo fine siamo stati posti al mondo. Se non fossimo ogni ora pronti a incontrare qualche incomodo per una buona causa, non saremmo degni del nome che portiamo». «Ma per me», disse Giorgio, «oh, non potrei sopportarlo». «Non aver timore alcuno, amico Giorgio, poiché non per te, ma per Iddio e per gli uomini noi facciamo questo», disse Simeone. «Ora tu devi riposare tutto il giorno e stasera alle 10 Fine a Fletcher ti condurrà fino alla prossima stazione con tutti coloro che sono con te. Non c'è tempo da perdere poiché ti daranno alacremente la caccia». «In questo caso perché attendere fino a sera? Oh, qui di giorno sei al sicuro, in questa colonia non vi sono che amici e tutti stanno sull'avviso. E poi c'è minor pericolo a viaggiare di notte». 14. Evangelina. Il Mississippi, che bacchetta magica mutò le sponde di questo fiume, da che Chateaubriand nella sua prosa poetica lo descrisse come errante tra foreste immense, tra solitudini inesplorate, tra maraviglie mai viste del regno vegetale e animale. In pochi anni, quelle scene incantatrici, piene di selvaggia poesia, quelle terre di sogno, si tramutarono in una realtà non meno meravigliosa e imponente. Quale altro fiume nel mondo reca all'oceano i tesori e il traffico di un paese simile a questo, d'un paese privilegiato i cui prodotti abbracciano quanto vi è tra i poli e i tropici? Quelle onde veloci e spumeggianti sono l'immagine fedele dell'operosità commerciale di una razza ardita e vigorosa, più che non fosse mai alcun popolo dell'antico mondo. Oh, piacesse a Dio che in tanta prosperità non venissero a mischiarsi le lacrime degli oppressi, i gemiti dei derelitti, gli acerbi lamenti che poveri cuori ignari sollevano a un Dio sconosciuto, invisibile e tacito, ma che pure verrà a redimere tutti gli infelici. Gli ultimi raggi del sole strisciano lievi e tremolanti sulle acque del larghissimo fiume, le canne di zucchero scosse dal venticello, i bruni cipressi da cui pendono ghirlande di musco grigiastro staccano sul fondo dorato. Il piroscafo, sovraccarico, prosegue il suo viaggio. Le bale di cotone ammonticchiate sulla tolda lo fanno somigliare a una massa quadrata che corre sul fiume. Noi dureremo un po' di fatica a trovare in questo naviglio il nostro amico Tom, fra tanta massa di merci e sì gran moltitudine di persone. In parte a cagione delle raccomandazioni del signor Shelby, in parte per la sua indole quieta e inoffensiva, Tom si era insensibilmente acquistato la fiducia dello stesso Haley. Sulle prime questi lo aveva attentamente sorvegliato di giorno e caricato di catene la notte, ma la placida rassegnazione e l'apparente serenità di Tom lo avevano indotto a tenerlo con assai meno rigore e già gli concedeva sotto parola d'onore di andare e venire liberamente sul vascello. Sempre cortese e tranquillo, sempre disposto a prestar servigio, a porgere aiuto ai marinai, egli si era procurato la stima di tutti e si associava alle loro fatiche, volenteroso, come se fosse stato al lavoro in una piantagione del Kentucky. Quando vedeva di non avere nulla da fare, si ritirava in una specie di nicchia da lui formatasi tra le bale di cotone per studiarvi la sua Bibbia. E quivi appunto ora lo troviamo. 100 miglia prima di arrivare a New Orleans, il fiume ha un livello più alto delle terre che attraversa e volge la massa furiosa delle sue acque fra immensi argini dell'altezza di 20 piedi. Il viaggiatore, in piedi sulla tolda, signoreggia con lo sguardo tutto quanto il paese, come dalla sommità di un castello galleggiante. Tom poteva scorgere dunque nelle piantagioni della riva un'immagine della vita che gli era serbata. Discerneva da lungi gli schiavi al lavoro, vedeva le lunghe file di capanne dove essi abitano stendersi lontano dal palazzo del padrone, e mentre quella scena sì svariata passava dinanzi a lui, il suo povero cuore troppo debole si volgeva verso le piantagioni del Kentucky, all'ombra degli antichi faggi, verso la casa del signor Shelby, coi freschi e ampi portici, e lì vicino la sua capanna, tutta coperta di rosaie e begonie. Gli sembrava di vedere i noti volti dei suoi compagni cresciuti con lui fin dall'infanzia. Sua moglie, tutta intenta a preparare la cena, udiva gli scrosci di risa dei suoi figliuoli e il bisbigliare della sua fantolina ritta sulle sue ginocchia. Ma a un tratto svaniva ogni cara immagine e gli tornavano dinanzi le piantagioni di canne da zucchero e udiva l'alto fragore delle macchine del battello e tutto. Gli diceva purtroppo che il tempo felice era irreparabilmente trascorso. In un caso simile voi scrivereste a vostra moglie, dareste vostre notizie ai vostri figliuoli, ma Tom non sapeva scrivere. Per lui la posta era come se non esistesse e l'abisso di separazione non poteva essere valicato né da una parola d'amore né da un segno di vita. Non è dunque strano se alcune lacrime gli cadono sulla Bibbia aperta lì sopra una balla di cotone, mentre il suo dito paziente, guidandogli l'occhio di parola in parola, lo aiuta a rintracciarne le promesse. Avendo imparato tardi a leggere, Tom non leggeva correntemente e durava fatica a passare da un versetto all'altro, ma per buona sorte quel libro nulla perde a essere in una certa guisa compitato. Pare anzi che tutte le sue frasi, come verghe d'oro, debbano essere pesate a una da chi ne voglia comprendere il valore inestimabile. Seguiamolo un istante mentre gli va dietro alle parole col dito e le pronunzia sottovoce. Il vostro cuore non si turbi. Voi credete in Dio, credete anche in me. Vi sono parecchie sedi nella casa del padre mio. Vado a prepararvi colassù un posto. Gli uomini istruiti, quando leggono il Vecchio o il Nuovo Testamento, sono arrestati da numerosi dubbi. Mille questioni di autenticità del manoscritto, di esattezza nelle traduzioni, pongono alla tortura il loro intelletto. Ma non era così per il povero Tom. Per lui tutte le parti della Bibbia erano sì evidenti e sì divine che la possibilità di un dubbio non entrava mai nel suo semplice cuore. Dovevano pure essere vere quelle promesse, poiché altrimenti come avrebbe potuto vivere? La Bibbia di Tom, sebbene non fosse arricchita di note o di commenti in margine da alcun dotto chiosatore, era abbellita da certi tratti e geroglifici di invenzione di Tom stesso che lo aiutavano meglio di quanto avrebbero potuto fare sapienti dissertazioni. I figli del suo padrone, e Giorgio specialmente, avevano l'uso di leggergliene spesso qualche brano, e quando un passo gli dilettava l'orecchio o gli commuoveva il cuore, egli lo segnava subito con la penna, cosicché la sua Bibbia Era tutta coperta da una varietà di segni e di indicazioni che gli rendevano facile di trovare i suoi passi prediletti, senza essere costretto a percorrere i versetti intermedi. Ciascun passo gli ricordava una scena della sua vita domestica o alcuna delle sue gioie perdute. Quella sua Bibbia conteneva quanto gli restava della vita scorsa e la promessa di una vita futura. Nel numero dei passeggeri si trovava un giovane signore di New Orleans, di famiglia ricca e onorata, chiamato St. Clair. Aveva seco una fanciulla di 5 o 6 anni e una signora parente di lui che pareva addetta a custodire la bambina. Tom l'aveva osservata sovente, essendo lei di quelle creaturine che non si possono dimenticare dopo averle viste una volta, fanciullette dal piede leggero, con lo sguardo curioso e che al pari dei raggi del sole o della brezza estiva non si lasciano rinchiudere in uno spazio ristretto. Nelle forme, ella era la perfezione della bellezza infantile, aveva tutta la grazia aerea di un'immagine mitologica. Il suo leggiadro visetto attraeva gli sguardi non tanto per la rara beltà delle fattezze, quanto per un'espressione profonda e meditativa che toccava l'anima di chi la guardava, fossero persone colte o ignoranti. Una singolare nobiltà si scorgeva nel portamento della testa, del collo, di tutta la persona di lei. I lunghi capelli che le ondeggiavano intorno al viso e alle spalle come una nube dorata, la celeste gravità dei suoi occhi azzurri ornati di lunghe e brune ciglia, la distinguevano da tutti gli altri fanciulli della sua età. Cosicché ella attirava ogni sguardo quando correva da un capo all'altro del piroscafo. Peraltro, non si poteva dire che ella fosse una fanciulla malinconica, anzi, un'innocente gaiezza aleggiava sopra le sue sembianze infantili e accompagnava i suoi movimenti. Ella era sempre in moto, con un lieve sorriso sulle rosee labbra, e ora sembrava che volasse, tanto era lieve nel correre, ora canticchiava come nell'ebbrezza di un sogno felice. Suo padre e la sua custode erano continuamente a inseguirla, ma appena l'avevano raggiunta, ella guizzava loro dalle mani come una nube d'estate. Sempre vestita di bianco, svolazzava dappertutto come un'apparizione e ogni angolo recondito era stato rallegrato dalla sua testina d'angelo. Talvolta il fuochista, coperto di sudore e di fumo, incontrava gli sguardi della fanciulletta rivolti prima con stupore giù nell'ardente fornace, indi fissi su lui con terrore e compassione, credendolo esposto a un gran pericolo. Il pilota sorrideva quando il bel visetto si mostrava un istante dietro i cristalli del suo camerino. 100 volte al giorno si udivano voci aspre benedirla, si vedevano facce rozze sorridere al suo avvicinarsi. E quando lei, arditella, si arrischiava in passi pericolosi, tutte quelle mani nere e callose si stendevano a gara per darle aiuto. Tom, che possedeva al massimo grado l'affettuosa e mite indole della sua razza, con sollecitudine ogni ora crescente, seguiva la bella creaturina. Gli pareva che avesse alcunché di celeste, e quando scorgeva la bionda sua testa dietro una balla di cotone ed ella fissava su lui quei risplendenti suoi occhi, beh, gli sembrava di vedersi apparire uno degli angeli del suo Nuovo Testamento. Spesso egli la vedeva girarsi malinconica presso il luogo dove Haley teneva il suo branco di uomini e donne in catene e la introducevasi fra gli schiavi, li osservava ad uno con dolorosa ansietà e con le sue manine talora sollevava le loro pesanti catene, indi si allontanava con un sospiro. Talvolta sopraggiungeva con un piccolo carico di frutta e di paste dolci, le distribuiva loro con la massima contentezza, poi spariva. Tom osservò a lungo la fanciullina in silenzio, prima di avventurarsi a fare più intima conoscenza con essa. Aveva in pronto molte maniere per trarre a sé il cuore dei bambini e risolse di servirsene destramente. Sapeva fare canestrini con noccioli di ciliegie, volti grotteschi col frutto dell'ippocastano, e nessuno lo vinceva nella fattura di zampogne e di zufoletti. I ninnoli che egli teneva riposti nelle sue tasche, già adoperati per trastullo dei figli dell'antico suo padrone e ora tirati fuori l'uno dopo l'altro con notevole parsimonia, valsero di introduzione ai trattati di amicizia. La fanciulla era ritrosetta, benché fosse spinta di mischiarsi in tutte le cose, e non restava facile a domesticarla. Nei primi giorni, appollaiata come un canarino sopra una balla di merci, ella guardava in silenzio Tom lavorare, né accettava i suoi doni, ma in breve si formò tra loro una perfetta confidenza reciproca. «Come vi chiamate, damigella?» le domandò egli quando gli parve di potersi arrischiare tanto oltre. «Evangelina St. Clair», rispose la fanciulletta, «ma il babbo e tutti gli altri mi chiamano Eva, e voi come vi chiamate?» «Il mio nome è Tom, ma nel Kentucky solevano chiamarmi zio Tom». «Ebbene, vi chiamerò anch'io zio Tom, perché vi voglio bene. Ditemi un poco, dove andate ora, zio Tom?» «Non lo so, madamigella Eva». «Non lo sapete?» «No, sarò forse venduto a qualcuno, ma ignoro a chi». «Oh, il mio babbo potrebbe dunque comperarvi», disse vivamente Eva, «e se vi compra sarete contento, ve l'assicuro. Fin d'oggi io lo pregherò». «Ve ne sono ben grato, madamigella». Il piroscafo si fermò per provvedersi di legna. Evangelina udì la voce di suo padre, gli corse incontro. Tom andò a offrire i propri servigi a coloro che caricavano legna e fu tutto affaccendato in quel lavoro. Evangelina e suo padre, appoggiati al parapetto, osservavano come il piroscafo prendeva le mosse dalla riva. Già la ruota aveva fatto due o tre giri quando un piede messo in fallo fece perdere l'equilibrio alla fanciulla che cadde nel fiume. Il padre suo, non sapendo più che cosa si facesse, stava per lanciarlesi dietro, ma qualcuno lo trattenne, visto che un soccorso più efficace era dato alla piccina. Tom, ritto sul ponte inferiore, all'istante della caduta di lei, la vide fare un tonfo nell'acqua e sparire, e in un attimo la seguì. Il largo suo petto e le sue braccia vigorose lo tennero a galla fino a che in due o tre minuti, secondi, ella ricomparve ed egli subito l'afferrò, seguendo a nuoto il piroscafo col suo prezioso carico, mentre per uno spontaneo impulso centinaia di mani si stendevano per riceverlo e in pochi istanti suo padre la recava tutta grondante e svenuta nella camera delle donne dove, come suol farsi in tali casi, fu oppressa in certo modo di cure amorevoli, con una gara in cui la troppa benevolenza era quasi un impedimento al suo riaversi.